24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 30 secondi di questo lunedì 16 marzo inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, come al solito vi do proprio un'immagine fulminea di come aprono due quotidiani soliti che mettiamo a confronto. Le Figaro per la prima volta dedica la prima pagina alla grande prova, la definisce così, della Francia. Quindi c'è un cambio, mettiamolo in questo modo. Dopo settimane in cui c'erano le foto di Roma deserta, Firenze con i musei deserti, eccetera, adesso c'è la grande prova e la grande prova è quella che attende la Francia. Vedremo come se la caverà. Invece la notizia un po' inquietante che troviamo sul Guardian è che il Guardian è entrato in possesso di un rapporto segreto del servizio pubblico sanitario inglese, secondo il quale l'epidemia di coronavirus, teniamoci forti, potrebbe durare un anno in Inghilterra, in Gran Bretagna, stiamo parlando solo della Gran Bretagna, e portare alla morte di 8 milioni di persone, per l'esattezza 7,9. Non alla morte, chiedo scusa, al trattamento sanitario. Per fortuna non vengono previste le morti. Questo è un documento del quale è venuto in possesso il Guardian, che allunga, speriamo che si sbaglino, allunga i tempi di trattamento del coronavirus. Allora, molto ricca questa puntata, perché parleremo prima degli aspetti sanitari e, visto che siamo sul Guardian, parleremo anche della strategia inglese, poi andremo alle questioni economiche, perché ancora c'è da discutere naturalmente delle parole dell'altro giorno di Christine Lagarde. Lo faremo con un ex banchiere centrale, cioè già membro del comitato esecutivo della BCE, che è Lorenzo Bini Smaghi, e poi l'aspetto un po' più politico col vice segretario del Partito Democratico. Iniziamo, come si diceva, dalla parte sanitaria, dalla parte del confronto internazionale, perché quello sul quale ci si inizia ad interrogare, anche se forse ormai è un po' tardi, è: qual è la strategia migliore? La Corea del Sud e alcuni paesi dell'estremo oriente ne hanno adottata una, forti anche delle precedenti emergenze della MERS e della SARS. La Gran Bretagna pare volerne adottare un'altra, e però con qualche oscillazione. Ci sono alcune vie di mezzo, c'è la via italiana, la via di Wuhan. Emanuele Capobianco, direttore salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Buongiorno Capobianco, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Capobianco, io vorrei cominciare proprio dalla Gran Bretagna, perché è quella che apertamente, con le parole secche, Emanuele Macaluso stamattina in un'intervista dice: mi stupisce, mi amareggia il cinismo che si usa contro noi vecchi. Ebbene, Boris Johnson l'ha usato, come dire, in misura esponenziale, dicendo: preparatevi, perderete molti dei vostri cari. Perché? Perché in Gran Bretagna la strategia era quella di vedere chi resiste, resiste, e chi non resiste, no. Ora, questo rapporto che citavo prima, pubblicato oggi dal Guardian, un rapporto segreto del servizio pubblico sanitario, prevede che l'epidemia possa durare un anno in Gran Bretagna e portare a 7,9 milioni di persone sotto trattamento. A quale strategia corrisponde, a quale strategia sanitaria corrisponde la scelta britannica? La scelta britannica è una scelta rischiosa e pericolosissima, che prevede di creare l'immunità di gregge, cioè di esporre al virus la maggior parte della popolazione, aumentare fino al 50-60% della popolazione, per poi fare in modo che le altre persone non vengano colpite. L'idea è, in questa fase, di preservare le persone più anziane, ma il problema di questa strategia è che si basa su dei presupposti che non sono accertati. Innanzitutto, non si sa quanta immunità si riesca a creare dopo l'infezione. In secondo luogo, e questa è la cosa più importante, è che una strategia di questo tipo non dà la garanzia di preservare gli anziani dalla malattia. Quindi il rischio che il sistema sanitario venga esposto ad un numero non controllabile di casi è altissimo. e quindi questa strategia è una strategia molto rischiosa, sulla quale peraltro il governo inglese già da ieri sera sta cambiando marcia e incominciando a dire ci sposteremo lentamente verso una strategia che è più la strategia europea. Per cui sta cambiando già il linguaggio politico. Quello che sta succedendo però in Inghilterra, che è molto grave, è che le persone non vengono in questo momento non vengono protette. Ieri si è corsa una maratona a Bath con 6.000 persone e il rischio che quindi il contagio si diffonda molto velocemente è alto. Senta Capobianco, a proposito, e così veniamo anche a questioni che poi interessano tutti in questa lotta contro il coronavirus, a proposito della questione dell'immunità, noi che cosa ne sappiamo? Perché da quel che leggevo, e poi per carità lei può essere su questo sicuramente può darci qualche chiarimento, da quel che leggevo in realtà con dagli esempi che abbiamo dai precedenti coronavirus, l'immunità dura una certa quantità di tempo, cioè non è che sei immunizzato adesso e sei immunizzato per sempre, e anzi questa immunità è piuttosto breve, quindi una strategia come quella britannica potrebbe scontrarsi anche con questo, no? Assolutamente, dobbiamo ricordarci che questo virus è un virus nuovo, quindi lo stiamo studiando e non sappiamo per esempio quanto a lungo sarà l'immunità delle persone che hanno avuto il virus. Come dice lei, l'esperienza di altri virus come il virus della SARS, come il virus della MERS, è che un'immunità si viene a creare, ma questa immunità non è permanente, dopo un po' di tempo svanisce. Quindi creare una strategia come quella del governo inglese, che si basa tutto sul concetto di immunità nel momento in cui non abbiamo dati certi sull'immunità, è una strategia altamente rischiosa. Tra l'altro, con tutti gli italiani che abitano in Gran Bretagna, insomma, l'argomento è di particolare sensibilità per tante famiglie che hanno i loro cari che vivono lì. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, italiani, europei e così via. Senta, per quanto riguarda invece Israele, che tra l'altro è il paese del quale leggiamo, e le chiedo conferma, nel quale sembra essere avanzata la ricerca per il vaccino. La strategia israeliana, e per quanto ne sa lei, a che punto siamo con la ricerca del vaccino, che comunque poi dovrà essere testato, avrà i suoi tempi? Allora, la strategia israeliana è stata una strategia molto, molto radicale e veloce. Sono stati tra i primi a testare, a chiudere le frontiere, sono stati veramente molto, molto attenti a fare il follow up di ogni caso per impedire l'espansione. Ricordiamoci, l'Israele è chiaramente all'avanguardia nella preparazione contro attacchi bioterroristici e quindi nella gestione delle epidemie. In un certo qual modo è uno di quei paesi che si è preparato di più alla ipotesi di una epidemia, di una pandemia, così come i paesi dell'Asia che hanno avuto la SARS nel 2002 sono stati paesi che si sono veramente hanno investito molto per preparare i sistemi sanitari, per preparare il personale, per aumentare la capacità decisionale, che è così importante nella rapidità della capacità decisionale, le chiare linee di comando a livello governativo, e tutto questo ha consentito a questi paesi di rispondere in maniera più rapida e tutto sommato anche efficace. Per quanto riguarda il vaccino, Capobianco, mi scusi, si attivano, sono paesi nei quali si attivano dei protocolli immediati in casi di questo genere, perché sono rimasti scottati da epidemie precedenti, e quando si attivano questi protocolli si sa esattamente cosa fare. Lo sanno le autorità, si sa esattamente chi comanda, lo sanno i cittadini. Esattamente, investire in preparazione è fondamentale prima di un'epidemia. È molto più difficile rispondere ad un'epidemia cambiando le cose quando l'epidemia è in atto. È molto più facile, anche se costoso, investire in preparazione prima. Investire in posti letto, investire in personale, investire in quelle linee guida che consentono appunto la capacità decisionale di prendere decisioni in fretta al momento giusto, investire nei piani di comunicazione. Se lei pensa, l'8 di febbraio il primo ministro di Singapore ha fatto un discorso alla nazione così preciso, così empatico, così chiaro, che in un con un semplice discorso la popolazione ha capito che cosa stava succedendo. Molte lo so, Capobianco, ma Singapore non è... Mi scusi, Singapore è uno dei benchmark di uno Stato che non è propriamente comparabile con uno Stato europeo. Lì c'è uno che decide. E le volevo proprio chiedere a questo proposito. In molti, lo fa anche Galli della Loggia questa mattina sul Corriere della Sera, stanno riflettendo sul ruolo delle regioni alle quali è attribuita la competenza in campo sanitario. Si riflette sui tanti denari spesi, probabilmente male, le tante inchieste giudiziarie che hanno messo in luce, anche in Lombardia fu condannato il presidente della regione Formigoni, lo spreco di soldi. Oggi tante regioni, per esempio al sud, si accorgono di non avere le strutture sanitarie necessarie, eppure i soldi sono stati spesi diversamente. Galli della Loggia ricorda i festival della pizzica in Puglia o in Basilicata, le grandi strutture sportive invece di efficientare gli ospedali. C'è una riflessione da fare su come sono stati spesi i soldi delle regioni nella sanità italiana? Guardi, io in questo momento mi sento solamente di essere vicino a tutto il personale medico sanitario che sta lottando. E quelli non c'entrano, mica decidono loro come spenderli. Sono poveracci, quelli purtroppo sono i più colpiti eventualmente dalla mancata programmazione sanitaria. Non c'entrano, siamo tutti vicini a loro, no? Lo so, il problema è che ci saranno tempi per guardare indietro e per criticare scelte sbagliate che ci sono state in Italia come in altri paesi che in questo momento non stanno rispondendo in maniera adeguata. Gli altri paesi, particolarmente in Europa, non hanno risposto in maniera adeguata a questa emergenza. In questo momento però ci vuole unità e supporto di tutti gli operatori sanitari che stanno lottando in maniera incredibile. Lo vediamo in televisione, ne parliamo io ne parlo regolarmente con i miei colleghi medici e infermieri in Italia. È straordinario il loro sforzo e dobbiamo essere uniti in questo momento, perché siamo nel momento di emergenza. Finita l'emergenza si dovrà riguardare a quello che è stato fatto o non è stato fatto prima del Covid e mettere in atto strategie nuove, perché le inefficienze che sono state incontrate non si ritrovino in futuro. Capobianco, mi faccia tornare su un punto strategico, ossia l'immunità o meno e quanto dura l'immunità ad un coronavirus, perché nel riflettere su questo, nel riflettere nel fatto che dalle esperienze precedenti sappiamo che l'immunità può durare poco, mi viene da dire che a questo punto nessuna strategia effettivamente rischia di funzionare, perché tra un anno il rischio è di trovarsi da capo a 12, ossia a meno che non troviamo il vaccino, naturalmente, a meno che non si trovi una cura efficace, un antivirale efficace, il rischio è di ritrovarsi esattamente come siamo adesso. Allora, noi non sappiamo ancora, appunto, il discorso dell'immunità, ma sappiamo che per chiudere questa epidemia ci sono tre opzioni. Quella che ha menzionato lei del vaccino, e sulla quale si sta lavorando a livello internazionale alacremente, ma che sappiamo non arriverà prima potenzialmente di 18 mesi, a meno che non si riesca a accelerare ulteriormente gli studi. La seconda opzione è trovare una terapia, e anche qui si stanno provando diversi farmaci per vedere quali possano essere efficaci. La terza è questa dell'immunità di gregge. Sappiamo che una certa immunità viene prodotta dal confronto con il virus, non sappiamo ancora quanto questa durerà. È chiaro che questo è qualcosa che dovremo studiare nei prossimi mesi, man mano che l'epidemia avanza e gli studi sulla Cina, che è stata il primo paese ad avere i casi, saranno estremamente utili per dare indicazioni su questo punto. Abbiamo un buco nero, Capobianco, che è l'Africa. L'Africa è un buco nero. In questi ultimi giorni sono arrivati molti nuovi casi in Africa, 26 paesi sono sono colpiti, stanno prendendo delle misure molto forti. Il Kenya ha bloccato i voli, così il Ghana, la Tanzania, il Marocco stanno rispondendo chiudendo, cercando di limitare i contagi, e questo è chiaramente una delle strategie. Sappiamo che l'Africa è un grande continente con molte differenze, ma in generale sistemi sanitari deboli, ci sono altre malattie, c'è sovrappopolamento particolarmente nelle zone urbane, e poi ci sono dei paesi come il Congo, il Sudan, la Repubblica Centroafricana, dove realmente i rischi, nel caso in cui l'epidemia arrivi in modo massivo là, sono molto molto alti, e noi come Croce Rossa stiamo mobilizzando tutte le nostre risorse nei singoli paesi per cercare di appoggiare i governi nella preparazione e nella risposta all'epidemia. Grazie Emanuele Caputo. La chiusura dei confini, mi perdoni, prego, proprio prego, Maria, al prego, volo, prego, la chiusura dei confini in Europa è utile? Allora, la chiusura delle frontiere non ha più senso quando il virus sta circolando in maniera diffusa. Quindi la chiusura delle frontiere negli Stati Uniti, la chiusura delle frontiere in Europa, la Germania l'ha messa in atto, secondo me non è una mossa strategica. Sappiamo che laddove invece c'è un paese che non ha casi, il ridurre l'arrivo di persone da posti che sono infetti ha un effetto nel ritardare l'arrivo dell'epidemia e probabilmente nel ridurre il numero dei casi. Quindi in quel caso può essere giustificato. Grazie Emanuele Capobianco, direttore salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo subito dopo e parliamo anche degli effetti economici. Mattino. Ciao, sono Anna, ragazza italiana che vive a Stoccolma. Intanto vorrei ringraziarvi assolutissimamente. Credo che siate diventati la mia compagnia più grossa in questa self-quarantine che ho deciso di fare, visto che qui, oltre che Inghilterra e Francia, anche la Svezia si sta decisamente comportando vergognosamente, lasciando tutto aperto e non dando nessuna restrizione a parte chiudere gli eventi sopra alle 500 persone, molto a differenza di Danimarca e Norvegia che invece hanno già chiuso tutti i confini e tutto. Io sono anziano, 71 anni, ma non vedo alcun cinismo verso gli anziani. Se ho una mela la do a mio nipote e non me la mangio io. Giulia Venezia Giulia, sin dalle prime ore, quindi dal 23 febbraio, sono state adottate delle misure molto severe sia per la guida sia per l'utenza. Abbiamo messo le distanze, abbiamo dotato gli autisti di mascherine, abbiamo previsto la sanificazione di tutti gli autobus sin dal 23 di febbraio, è stata disposta la limitazione del traffico. Ieri per esempio, domenica, le corriere non hanno circolato. Sono un autotrasportatore. Visto che noi, bene o male, non ci possiamo fermare per un motivo o per un altro, quali iniziative prende le autostrade, in quanto è l'unica che in questi tempi continua a incassare e noi dobbiamo trasportare le merci con tutti i rischi e i pericoli? Quale mano ci dà la società autostrade agli autotrasportatori? Qualche voce ai nostri ascoltatori, se volete potete continuare a mandarcela al 349-238-6666 via SMS, messaggi vorrei su WhatsApp una cosa soprattutto. Finisco permettimi Maria, sì. Finiamo solamente, con calma. C'è tutto il tempo. Allora, 349-238-6666, lo conoscete, è il numero per i messaggi WhatsApp, anche audio, anzi soprattutto la vostra voce che ci fa piacere sentirla, è l'800-24-0024 per intervenire in diretta. E adesso andiamo a Stoccolma con Maria Latella. A Stoccolma, cara ragazza, un abbraccio intanto, perché immagino come ti senta tu e come si sentono i tantissimi giovani, e sono tanti, che in questo momento vivono, lavorano, studiano in Europa e non possono rientrare in Italia perché mancano i voli, perché sapete che le grandi compagnie aeree hanno smesso di volare in Italia. Per fortuna abbiamo ancora Alitalia, che assicura per esempio almeno un volo al giorno, e guardate che di questi tempi avere la nostra compagnia di bandiera, rispetto alla quale abbiamo detto tutti, io per prima, che bisognava venderla perché è stato uno spreco in tutti questi anni, in queste ore avere Alitalia consente almeno un volo al giorno da tanti paesi. E questi ragazzi sono i ragazzi figli dell'Europa, no? Figli dell'idea che non ci fossero confini. Mi viene da pensare che invece i confini sono stati reintrodotti e che a questi ragazzi, ai quali abbiamo spiegato in tutti questi anni che era bellissimo lavorare in un altro paese e poi prendere un volo low cost, andare a trovare i genitori o gli amici, come se non ci fossero più confini, ecco, a questi ragazzi invece si presenta una realtà diversa. Quindi un abbraccio a te che ci senti da Stoccolma, e virtualmente a tutti i ventenni, i trentenni che stanno in Europa e che sentono un po' la nostalgia di casa, in più sapendo che non ci possono tornare. Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora Orlando, ci siamo beccati qualche polemicuzza anche nel fine settimana, per fortuna mi pare tutto sedato, almeno per il momento. Sì, ma credo che sia questo importante, perché davvero le polemiche in questo momento servono a poco, fanno perdere del tempo. Io non è che penso che ci si debba volere bene per forza, però in questo momento la nostra attenzione, il nostro impegno deve essere prevalente soprattutto di chi ha responsabilità pubbliche, deve essere concentrato a risolvere i problemi, non a descriverli, ecco, quindi, o a dare la colpa ad altri di questi problemi. Poi ci sarà il tempo, quando avremo superato questa situazione, per discutere, per ricostruire, per dare le responsabilità, ma adesso davvero al lavoro, e ognuno nel suo ruolo, nella sua funzione, per provare a rendere questo incubo più breve possibile e a mettere nelle condizioni migliori le persone per affrontarlo. Maria, prego. Orlando, buongiorno. Maria Latella. Senta, abbiamo ovviamente visto con attenzione il decreto che il governo si appresta a varare. Ci sono congedi speciali pari al 50% della retribuzione, i voucher babysitter, l'una tantum per gli autonomi. Le risorse sono molte. Il Presidente del Consiglio, in un'intervista oggi al Corriere della Sera, Monica Guerzoni, ha detto: guardate, fatto il parametro col nostro PIL dell'Italia, equivalgono alle misure che ha preso la Germania. Ma secondo lei basteranno? E se non basteranno, come uno immagina, dove li andremo a prendere i soldi? Bisognerà che l'Unione Europea venga coinvolta una volta ancora? Sì, credo che sarà necessario, ma credo anche che noi dobbiamo sapere che una situazione come questa, a una situazione come questa non si risponde semplicemente con un intervento, ma abbiamo visto quando ci sono state alluvioni, terremoti, che sono, rispetto a questo, diciamo, eventi molto più contenuti e circoscritti, come siamo dovuti nel corso del tempo reintervenire, perché spesso, diciamo così, gli effetti non erano tutti prevedibili e calcolabili nel momento in cui si interveniva. Qui noi dovremo implementare costantemente la normativa e dovremo via via, come dire, fare i conti con gli effetti economici di questo stop forzoso che si è venuto a determinare. Quindi io credo che bisogna mettersi nell'ottica che è un cantiere, siamo di fronte a un cantiere aperto sul quale si dovrà intervenire più volte, e l'Unione Europea dovrà dare una mano, ma io credo che in questo senso non c'è neanche, come dire, da discutere di questo, perché siamo di fronte a un evento che non solo, purtroppo, come abbiamo visto, sta iniziando a riguardare negli stessi termini anche altri paesi, ma soprattutto il crollo dell'economia italiana rischia di essere il presupposto del crollo dell'economia europea. Quindi io credo che ci siano tutti gli elementi perché si possa andare a chiedere uno sforzo congiunto e comune, e perché questo sforzo sia stato, si possa essere accolto. Orlando, sempre sul fronte economico e sul fronte dei provvedimenti che verranno presi questa mattina, due osservazioni. La prima ha a che fare con la tempistica. Insomma, noi ci sono tutta una serie di cose che noi sapevamo che ci sarebbero state all'interno del decreto, a partire dal rinvio delle scadenze fiscali, e mi permetta che pur nel cantiere è un po' assurdo arrivare alle 9 del mattino del giorno della scadenza per rinviare il pagamento dell'IVA, e vorrei una sua valutazione su questo. Il secondo elemento sono gli autonomi. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo, dicono il contributo da 600 euro, il rinvio delle tasse, il contributo da 600 euro una tantum, è francamente un po' poco per una situazione di precarietà lavorativa che ha già avuto le sue conseguenze nell'ultimo mese, perché questa gente già non lavora da settimane. Intendete anche come Partito Democratico muovervi in questa direzione? Prego. Ma intanto io credo che dobbiamo partire dal presupposto che una manovra di queste dimensioni fatta in pochissimi giorni è anche questa a sua volta una, come dire, un unicum credo nella storia del nostro, nel nostro paese. Quindi credo che davvero sia stato fatto uno sforzo da parte non solo del governo, ma anche di tutte le strutture che supportano questo tipo di attività, che è incredibile. Quindi da questo punto di vista penso che questi disagi che si possono determinare, cioè il fatto che si sia arrivati all'ultimo momento, debbano essere inquadrati in questo senso e debbano essere in qualche modo anche, come dire, ci vuole da parte di tutti un po' di pazienza. Per quanto riguarda gli autonomi, credo che si dovrà fare di più, ma dobbiamo anche partire dal presupposto che siamo di fronte a un intervento che è un intervento come dire, di primo soccorso. Non possiamo pensare che oggi ci siano tutte le risposte di prospettiva. Ora si tratta di, come dire, di evitare il collasso, di evitare che le persone vadano in una situazione di disagio insostenibile. E anche il contributo agli autonomi va visto in questo senso, ma dobbiamo anche pensare che si tratta di uno strumento, si è inventato uno strumento che non esisteva, perché non esisteva nel nostro ordinamento nessun tipo di sostegno agli autonomi, e questo strumento si è inventato nell'arco di 5-6 giorni. Ora, chi ha un po' di esperienza parlamentare o chi semplicemente ha vissuto in questi anni e ha seguito una manovra economica sa che ci sono problemi quando la manovra viene impostata con un anticipo di 5-6 mesi, quando c'è un decreto di programmazione, eccetera. E si tratta di manovre che spesso hanno una dimensione minore di questa. Ecco, noi abbiamo fatto, il governo ha fatto, perché io posso avere solo un contributo, diciamo, da casa per quello che potevo, ma ha fatto un lavoro in pochissime ore che normalmente altri governi hanno fatto impostandolo con mesi e mesi. Quindi insisto, dobbiamo sapere che si dovrà tornare sopra, ci vuole pazienza, e bisogna sapere che si tratta di una situazione in cui ognuno è messo, messo in una condizione di lavoro che è spesso, diciamo, imprevedibile, molto al di sopra delle condizioni che spesso sono toccate a chi si è preceduto. Allora, grazie, grazie Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico. Buona quarantena, naturalmente. Lorenzo Binismaghi, economista, presidente della Societe Generale, già membro del comitato esecutivo della BCE. Binismaghi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Binismaghi. Le è piaciuta la Lagarde l'altro giorno? No, non molto, no. Devo dire. Non solo, tra l'altro, anche gli articoli che escono stamattina. Rispetto alla tematica del pacchetto che la BCE ha adottato, in realtà l'ha presentato male anche nella sua sostanza, perché al di là di quella frase non molto felice, il pacchetto di decisione della BCE è sostanziale, perché comporta una forte riduzione degli interessi e tasso interesse per i prestiti e le piccole e medie aziende, praticamente il raddoppio del QE e una serie di altre decisioni che avranno un impatto sull'economia. Naturalmente, come dicevate prima, le cose cambiano ogni giorno, perché la dimensione globale di questa crisi sta emergendo sempre di più. La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse a zero, e nonostante questo i dati che vengono dall'Asia stamattina indicano un calo delle borse di nuovo. e dunque è un po' sono delle manovre che sembrano adeguate fino a un certo punto, ma poi esaminate dopo qualche giorno magari richiedano ulteriori interventi, dunque proprio un'evoluzione continua, però sicuramente diciamo la performance comunicativa della Lagarde non è stata molto efficace, diciamo. Bini Smaghi, a proposito di questa performance, certo le borse non vanno bene in generale, ma quelle parole di Christine Lagarde hanno provocato un crollo significativo, il più profondo crollo della borsa italiana che si ricordi, e un crollo anche in altri paesi, tant'è vero che sia Gran Bretagna che Spagna hanno sospeso le vendite allo scoperto. Il Copasir, il nostro Copasir, unitariamente dal rappresentante di Fratelli d'Italia, quello del Partito Democratico, a caldo pensava di aprire un'indagine circa le dichiarazioni della Presidente della BCE per capire se di gaffe si poteva parlare o se ci fosse stata invece una strategia. Lei che idea si è fatto? Il Copasir fa quello che può fare, a me sembra, non riesco a capire che tipo di strategia ci possa essere dietro al fatto che uno fa una qualcuno è anche il Sole 24 Ore in un articolo molto preciso, ne ha parlato, ha eventualmente immaginato che poi potesse esserci una corsa ad acquisire azioni di aziende strategiche italiane. Questa era la preoccupazione del Copasir, non so quanto fondata, ma lo chiedo a lei che ne sa certamente più. Mi sembra molto come dire, la borsa italiana è scesa del 16, tra l'altro stava scendendo già prima per le dichiarazioni di Trump e una serie di altri fattori. La borsa italiana è scesa del 16, quella spagnola del 14, quella francese tedesca del 12. Non riesco a capire che tipo di strategia uno possa avere in mente per far scendere le azioni, cioè generalmente quando si vende il titolo va giù, dunque non so chi ha comprato in quel caso lì, perché evidentemente semmai qualcuno ha venduto, non ha comprato. Poi però insomma, ognuno è libero di fare le analisi le valutazioni. Ecco, a me mi sembra un po' pericoloso in questa fase che si cerchino un po' dei fantasmi capi espiatori, dice? Sì. Ma insomma, francamente, questa è una tendenza un po' italiana, ecco, diciamo, di cercare delle colpe altrove, delle strategie strane, dei complotti. Qui c'è un problema globale, le borse sono scese dappertutto, la Lagarde ci avrà messo un po' del suo, il giorno dopo in parte recuperato. Non mi sembra questo il problema che abbiamo di fronte in questo momento. Il problema è far fronte a una recessione importante in tutto il mondo, fare interventi efficaci, magari comunicarli meglio, che il mercato capisca bene che cosa si sta facendo, ma pensare che ci siano come dire, complotti, strategie contro l'Italia, io trovo molto sorprendente che ci siano tante persone che ci credano, ecco, perché... Senta Bini Smaghi, si parla spesso, quando si parla di banche centrali, di cassette degli attrezzi, no? Ad intendere gli strumenti che le banche centrali hanno in mano per intervenire sull'economia. Ora, quello che le voglio chiedere, quello sul quale la domanda si stanno ponendo in molti, è che cosa hanno ancora nella cassetta degli attrezzi le banche centrali? Cioè, visto che i tassi sono praticamente a zero o sotto zero in gran parte del mondo sviluppato, i piani di acquisto di titoli sono già stati varati ed erano ancora in corso quando è esplosa questa crisi. Insomma, il rischio è che le armi siano spuntate. Lei come la vede? Ma insomma, sicuramente è meno efficace di quando i tassi di interesse erano a un livello elevato e si potevano ridurre. Qui siamo arrivati a zero o addirittura a livelli negativi. Però ad esempio sappiamo che i governi europei, ma anche degli altri paesi, avranno dei piani di espansione fiscale importanti, dunque dovranno indebitarsi per finanziare questi interventi. L'acquisto di questi titoli da parte della banca centrale allevia l'onere per gli stati di indebitarsi. Per esempio ora l'Italia e la banca centrale europea ha aumentato il suo QE, i suoi acquisti di titoli di Stato, praticamente la parte che arriverà all'Italia è più o meno uguale all'aumento del disavanzo previsto dal governo, sono più o meno 25 miliardi. Questo significa che il governo potrà indebitarsi senza una pressione di tassi di interesse, anzi il QE che è stato messo in atto in questi anni, ricordiamoci, ha portato oltre 5 miliardi di utili alla Banca d'Italia, che sono stati girati poi al Tesoro. Dunque sono strumenti che poi hanno un impatto anche fiscale. La riduzione dei tassi di interesse su i prestiti in atto vuol dire che le aziende possono ricontrattare con le loro banche i prestiti che hanno a un tasso più basso. Sono degli strumenti che hanno la loro efficacia. Certo, non è sufficiente, bisogna fare un coordinamento. Non è come passare dai tassi al 4% ai tassi a zero, esatto. però insomma è chiaro che hanno una loro efficacia. Ha un'efficacia importante, e questo secondo me è il messaggio che involontariamente voleva dare la Lagarde, che però non gli è funzionato molto bene. In questa fase la politica monetaria non può far tantissimo, l'importante è il coordinamento e l'azione da parte dei governi. E dunque sta ai governi impegnarsi per prendere misure importanti. Naturalmente il problema in Europa è che non tutti i governi sono nella stessa posizione, perché in alcuni paesi per effetto delle politiche che sono state realizzate negli ultimi anni il debito è sceso, pensiamo in Germania il debito è tornato al 60%, invece in Italia il debito è al 135%. Cioè non è mai sceso in questi anni, nemmeno quando l'economia tirava. Dunque i margini di manovra non sono esattamente gli stessi. La Germania può fare molto di più, l'Italia purtroppo per una serie di politiche adottate in passato ha dei margini più bassi. E prima sentivo che dicevate che l'Europa dovrà aiutarci, però ricordiamoci, sono soldi nostri, non è che sono soldi europei. Questa manovra che verrà varrata, che aumenterà il disavanzo italiano, sono comunque fondi italiani che dovranno essere presi a prestito e che vanno a carico del debito italiano, non sono aiuti da parte di altri. Lei è un europeista convinto, ha lavorato a lungo a Francoforte, è presidente di una banca francese. C'è chi vede nella chiusura dei confini, delle frontiere, per esempio la scelta che ha fatto, probabilmente in modo razionale, la Germania, ma insomma così è, ecco, vede nella fine di Schengen la fine, o comunque una grande difficoltà per l'idea di Europa unita. Lei come la vede? Ma no, la vedo difficile, come diceva prima, sentivo alla radio per i ragazzi, ecco, anche io ho i miei figli che sono dovuti tornare all'ultimo. È vero anche che non ci si può muovere, non si può muovere nemmeno all'interno dell'Italia, se passare da Roma a Firenze o andare a Milano è impossibile. Cioè qui c'è una restrizione della mobilità anche all'interno dei singoli paesi, per cui come misura temporanea non la vedo una cosa drammatica. Più che altro sono le lunghe distanze, i voli e come diceva lei, i giovani che stanno in giro per l'Europa, il poter tornare con le loro famiglie in questo momento è stato molto molto difficile, ecco, questo sicuramente sì, però come misura straordinaria non la vedo una cosa devastante per, devastante per l'Europa, no, dice lei. Esci di casa ti fermano comunque al raccordo anulare, no? Dunque siamo tutti bloccati, mi sembra. Allora, Schengen fuori Roma. Dobbiamo chiudere con lo Schengen del raccordo anulare chiudiamo. Grazie Lorenzo Binismaghi per essere stato con noi. Buona giornata. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8.20, come sempre, 8.15, 8.20 più o meno. Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera in assistenza, in redazione Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani alle 6.30. Ciao.